as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui oggi, sempre al Pane delle Rose, 103.1 FM Radio Fucico. Seguite il Pane delle Rose, seguite Radio Città Fucico, andate sul sito www.radiocittafucico.it, troverete la nostra campagna di abbonamenti per sostenere una radio indipendente. Ormai sono rimaste poche le radio indipendenti in Italia e una di queste è Radio Città Fucico. Oggi parliamo di un argomento che mi avete chiesto, insomma, varie volte di affrontare questi ultimi mesi. E io non l'ho affrontato in maniera, diciamo, nel merito. Stiamo parlando del congresso della CGIL. Perché l'ho accennato in varie trasmissioni che si stava svolgendo. È un momento importantissimo per i lavoratori metalmeccanici, ma per i lavoratori in genere in Italia. Ogni 4 anni la CGIL è l'unico sindacato che va da tutti i lavoratori. Ogni iscritto ha diritto a votare e la CGIL cerca di arrivare a tutti questi lavoratori nei loro luoghi di lavoro, oppure convocandoli nelle camere del lavoro per poter votare. E tutti hanno diritto di votare, chi vuole iscriversi può votare. Adesso il congresso è finito e finalmente ne posso parlare anche nel merito, per correttezza, anche se la nostra trasmissione non è che è ascoltata da tutti i lavoratori iscritti alla CGIL, però è chiaro che per correttezza, visto che io sono parte in causa, sono andato anch'io in tante aziende a presentare i documenti, in questo caso il documento numero 2, io faccio parte del documento numero 2, detto di minoranza, a prima firma Eliana Como, che da anni è la nostra coordinatrice per quanto riguarda la sinistra sindacale all'interno della CGIL, anche in FIOM. E oggi, visto che Paolo Brini, il nostro frontman della banda popolare dell'Emilia Rossa, che è a Cuba in questo momento, però si fa tutti i congressi prima di andare via, ha praticamente ci ha mandato una registrazione di quello che lui dice nelle varie assemblee in cui presenta anche lui il documento numero 2, perché anche lui, come me, è membro della minoranza della sinistra sindacale in CGIL. Ora, prima di ascoltare Paolo, ci ascoltiamo un bellissimo pezzo di Laura Marling, Divine, che è un bellissimo pezzo, sempre musica ricercata qui al Pane delle Rose. Poi ci sentiamo Paolo, poi alla fine sentiremo, dopo il contributo che Paolo ci ha mandato, faremo le conclusioni, insomma, parleremo anche di quello che è successo in questi ultimi giorni. Ci sentiamo dopo. Break the water, make a ripple once in a while. Wake, it's morning, we've been sleeping for a while. Now forget what you wrote, that you're tired, time's getting on. So lay down your load, you're fine, I'm yours and you're mine. You're fine, I'm yours and you're mine. Stranger, I sense danger that won't show. Who holds the hand that holds a gun? You might never know. But when the note lingers, sending shivers down my spine, I feel in my fingers that I'm one with something divine. It's divine. Divine. I didn't drink a drop in weeks. All the waiting's only made it sweet. I tried not to freeze you before you thaw. Tried not to burn you away some more. When you ask what's coming, divine. It's divine. It's ha come ordine del giorno il congresso della CGIL, perché ogni 4 anni gli iscritti militanti della nostra organizzazione, quindi dalla base lavoratori, sono chiamati a decidere e scegliere quale linea sindacale il nostro sindacato deve portare avanti nei prossimi 4 anni. Ci vedete in due oggi, lui Emanuele, anche lui funzionario della FIOM come me, perché appunto, viva Dio, la CGIL è ancora forse l'ultima organizzazione del movimento operaio democratica che esiste in questo paese, e quindi appunto noi vi presenteremo oggi 2 proposte alternative e gli iscritti saranno chiamati poi a scegliere alla fine dell'assemblea, attraverso voto segreto eccetera, quale linea ritengono sia la linea più adatta per il nostro sindacato da portare avanti da qui ai prossimi 4 anni. Dico anche che se qualcuno non è iscritto e preso dall'entusiasmo del dibattito si vuole iscrivere, può iscriversi e poi anche votare dopo, quindi appunto anche questo è un'opzione da tenere bene in considerazione. Manuele vi presenterà il documento, la lista numero 1, che è quella che ha come, diciamo così, presentata dalla segreteria nazionale della CGIL. Io vi illustrerò la linea numero 2, che è quella presentata da un gruppo di compagni del direttivo nazionale della CGIL, ovviamente, che sono in alternativa. Diciamo, stamattina è partito Emanuele, quindi oggi pomeriggio parto io intanto a illustrarvi questa proposta numero 2. Come dicevo poco fa, appunto, il congresso è un appuntamento importante nella nostra vita interna e lo è a maggior ragione ancora di più oggi, data la situazione drammatica in cui noi siamo entrati. Siamo nel pieno di una inflazione e di un'esplosione dei prezzi vergognosa, che ha come origine una speculazione scandalosa da parte delle multinazionali dell'energia, che è cominciata dalla fine dell'anno scorso e che vede protagoniste anche le multinazionali italiane, Eni, Enel, Snam, Era. Non so se state già facendo le riunioni di condominio con i preventivi, con guagli di quest'anno, stanno arrivando delle bollette da processo, e tutto questo esclusivamente per ragioni di speculazione. Basta che andate a vedere i bilanci di queste aziende e capite i soldi in più che spendete per le bollette a chi in tasca vanno. Assieme a questo, e tutto questo si sta riflettendo sui prezzi di tutto al consumo. Assieme a questo siamo nel pieno di una guerra tra due blocchi, che è una guerra, come dire, le cui ragioni sono esclusivamente di carattere economico, di interesse geopolitico di quella zona, una guerra che ha un'escalation e non sappiamo davvero dove vada a finire. Dico che per esempio la FIOM ha aderito il 5 di novembre alla manifestazione nazionale che ci sarà contro la guerra a Roma, ma in questa guerra sicuramente ci sono 2 cose certe: uno, qualcuno ci guadagna; uno, qualcuno paga il conto. A guadagnarci, per quello che riguarda il nostro paese, visto che anche noi siamo in guerra dato che esportiamo le armi, ci guadagnano le multinazionali italiane delle armi. Leonardo Fincantieri, Finmeccanica, Ortomelara, Beretta. E invece c'è anche chi paga il conto. Innanzitutto la popolazione ucraina, ovviamente, che fa da carne da macello per un blocco e quell'altro, e però anche noi di conseguenza paghiamo il conto, perché se prima il gas lo importavamo a 2 euro al metro cubo dalla Russia, adesso lo importiamo a 70 dagli Stati Uniti, quindi è facile capire gli interessi che ci sono dietro e chi paga il conto. Terzo e non ultimo, abbiamo un nuovo governo che si va a insediare e che su tutte le questioni sociali ed economiche ci ha già fatto capire che è in perfetta continuità con i governi precedenti, e cioè con la linea dei governi che sono arrivati prima, ovvero rubiamo ai poveri per dare ai ricchi. Non so se avete visto la pantomima su quale sarà il nuovo ministro dell'economia, sono indecisi se lasciarci quello del governo Draghi o se metterci un altro banchiere di Banca Italia. Quindi, come dire, la musica non cambia, i posti che contano sono sempre in mano ai ricchi, sempre in mano ai padroni. In questo contesto la CGIL deve affrontare questa prossima fase drammatica essendo all'altezza però della situazione e dei compiti, e per esserlo, diciamo, per dirlo in maniera molto netta, la CGIL non può continuare con la linea che ha portato avanti negli ultimi 30 anni, perché se facciamo un bilancio di questa linea è un bilancio disastroso. L'Italia è l'unico paese in Europa nel quale i salari negli ultimi 30 anni sono diminuiti anziché aumentare, l'unico. Siamo passati da essere al secondo posto in Europa come salari al penultimo posto in Europa, e se io sto a quello che dice il centro studi della CGIL, quindi il nostro, noi abbiamo che in Italia il 97% dei lavoratori del privato e il 99% dei lavoratori del pubblico, quindi la stragrandissima maggioranza, applicano i contratti firmati da CGIL e CISL e UIL, il che vuol dire che se i salari sono crollati la responsabilità è anche nostra, che non siamo stati capaci di portare, come dire, di difendere i salari. I padroni hanno fatto il loro mestiere benissimo, noi non siamo stati all'altezza della situazione. In questi anni abbiamo rincorso i governi da un tavolo all'altro, abbiamo rincorso Confindustria da un tavolo all'altro, ma alla fine non siamo stati in grado di incidere. Questi tavoli ci hanno portato a girare in tondo senza stringere nulla, e quando è arrivato il momento che i padroni hanno dato gli attacchi frontali ai diritti dei lavoratori, non siamo stati all'altezza della situazione nel rispondere a questi attacchi. Penso quando c'è stata l'introduzione della Fornero, dove abbiamo fatto le famose 3 ore di sciopero, in Fiamme abbiamo fatte 8, ma comunque ci siamo sempre fermati lì. Penso alla questione del Jobs Act, dove anche lì abbiamo fatto 8 ore di sciopero, ma ci siamo fermati lì. Ed è chiaro che tutto questo ha portato negli anni a una perdita di credibilità e di autorevolezza da parte del nostro sindacato agli occhi dei lavoratori, che lo percepiscono sempre meno come uno strumento utile attraverso cui organizzarsi per difendere i propri diritti, per conquistarne dei nuovi e migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro. Al punto che l'anno scorso, per la prima volta nella nostra storia, la CGIL va sotto i 5 milioni di iscritti. E ovviamente stiamo raccogliendo i frutti amari di una linea che non ha pagato in tutti questi anni. E allora, se così è, noi bisogna che cambiamo di 180 gradi la rotta. Ed è per questo che noi presentiamo questo secondo documento alternativo, appunto, al documento che presenta la segreteria della CGIL. Perché dobbiamo proprio cambiare completamente rispetto al passato. E cambiare completamente rispetto al passato significa due cose precise. Primo, avere una piattaforma all'altezza della situazione, che risponda e risolva i problemi che noi abbiamo oggi e che sia uno strumento attraverso cui tu convinci e porti la gente in piazza. Perché è chiaro che per portare la gente in piazza bisogna che gli dai anche gli argomenti, le ragioni per cui andarci e per cui vale la pena dare battaglia e scontrarsi con quei padroni. Allora, sul tema dei salari, che è il tema centrale e primo, c'è un'unica rivendicazione che oggi può permetterci di difendere i salari da questo aumento devastante dei prezzi, e si chiama ripristino della scala mobile sui salari. Ripristino, dico per i più giovani che magari non lo sanno, la scala mobile è stata una conquista degli anni 70 con le lotte, per cui per legge ogni 3 mesi aumentavano i salari con l'aumento dei prezzi. l'inflazione reale, quindi l'aumento reale dei prezzi. Questo ha permesso ovviamente ai nostri salari di essere al secondo posto in Europa, e questo difendeva i salari dalle speculazioni, e infatti è la prima cosa che i padroni hanno voluto eliminare appena hanno potuto, ancora prima delle pensioni, dell'articolo 18, eccetera. Prima cosa la scala mobile. È chiaro che alla scala mobile vanno affiancati contratti nazionali degni di questo nome, cioè contratti nazionali in cui gli aumenti siano significativi, non come per esempio, come è avvenuto, mi è colpito molto, in Francia corta quest'estate, i padroni si sono lamentati perché non trovavano la gente che andava a fare la vendemmia, per forza, e gli pagavano una miseria e quindi la gente non ci andava. Però giustamente i padroni della Francia corta dicevano: ma noi applichiamo il contratto di CGIL e CISL e UIL, non è che applichiamo un contratto pirata, che dimostra che non puoi portare a casa dei contratti di questo genere, perché sono contratti che non sono all'altezza della situazione. Allora, certo che c'è bisogno anche di contratti all'altezza della situazione, ma se noi non abbiamo anche la scala mobile di fianco, e quindi queste due cose insieme, che cosa succede? Quello che fanno sempre i padroni, cioè con una mano io ti do l'aumento salariale, con l'altra mano me la riprendo con gli interessi aumentando i prezzi. Questo che è il gioco che impedisce la scala mobile. E un po' lo vediamo anche sul nostro contratto nazionale. Noi l'anno prossimo avremo un aumento di 90 euro probabilmente a giugno. Il problema però è che noi oggi abbiamo un aumento dei prezzi di 200 euro al mese, e quindi capite che non regge se io non ho anche la scala mobile in più che mi difende il salario. Assieme a questo, per fermare la speculazione, c'è un altro punto centrale che è da mettere all'ordine del giorno, ed è la rinazionalizzazione di tutto quello che è stato privatizzato in questi 30 anni. Luce, acqua, gas, trasporti, autostrade, assicurazioni, banche, perché è evidente che se quello che è un diritto diventa un monopolio privato, le conseguenze sono esattamente quelle che stiamo vedendo, e cioè che ci si specula sopra e a pagare saremo noi. Assieme a questo c'è un altro aspetto centrale: i ricchi sono diventati sempre più ricchi, la forbice si è sempre più allargata, e non è quindi che i soldi non ci sono, i soldi ci sono, e come. E lasciatemi dire che è stata una vergogna che quest'estate le multinazionali dell'energia avrebbero dovuto pagare 10 miliardi di euro di tasse sui sovrapprofitti, non li hanno pagati, lo hanno proprio detto candidamente, non gli è successo un cazzo. Provate a non pagare voi la bolletta un mese, poi vediamo se non succede niente. Non gli è successo nulla. E appunto, quindi questi fanno soldi a palate, questi soldi invece vanno presi, esattamente come i soldi che si spendono per le armi, e devono essere utilizzati per avere una scuola e una sanità pubblica, gratuita e di qualità per tutti. Noi oggi siamo in una situazione drammatica, solo per quello che riguarda la sanità. Negli ultimi 10 anni hanno tagliato 37 miliardi di euro sulla sanità. La conseguenza è che durante la pandemia la sanità non ha retto, evidentemente il pubblico è stato un macello, ma la cosa ancora più grave che noi vediamo oggi, si sta discutendo anche in Emilia Romagna, anche a Modena, di esternalizzare i pronto soccorsi degli ospedali alle cooperative, quindi cioè di privatizzare uno dei punti centrali che dovrebbe essere della sanità pubblica. Sulla scuola siamo al macello, ovviamente una situazione drammatica quella delle scuole, e in più abbiamo anche la giunta, perché oltre al macello a scuola adesso abbiamo la novità, e cioè che adesso in fabbrica, oltre a morire 4 operai tutti i giorni, muoiono anche gli studenti. Siamo già al terzo morto studente sul lavoro dall'inizio dell'anno, perché adesso a scuola ti prendono, ti portano a lavorare a gratis in fabbrica, ci muori, poi dopo pazienza. Oppure appunto il dramma delle morti sul lavoro, che sta diventando sempre più vergognoso. Avete sentito forse quella del rider che prima è stato ammazzato mentre faceva una consegna, il giorno dopo gli è arrivato il messaggio che era licenziato perché non si era presentato al lavoro, no? Per forza, era morto il giorno prima. Quindi cioè, siamo in questo contesto, in questa situazione. E in questa situazione l'ultimo punto a dir poco centrale è che dobbiamo riportare al centro due temini non da poco, che sono l'abolizione della legge Fornero sulle pensioni, perché non si può andare in pensione a 70 anni, ma ci deve tornare alla legislazione che c'era prima. Due, deve essere cancellato il Jobs Act, cioè va ripristinato l'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori. C'è bisogno di una piattaforma di questo genere per portare la gente in piazza, ma c'è bisogno anche poi di portare la gente in piazza, perché, come dire, anche nella nostra discussione interna, naturalmente ci sono temi che ci uniscono, come ovvio che sia, siamo nella stessa organizzazione. Penso alla lotta per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, penso naturalmente alla lotta alla precarietà, ma il punto è, noi bisogna che la gente la portiamo in piazza, e per portarla in piazza devi avere le parole d'ordine, ma devi anche avere il coraggio di aprire un'intera stagione di lotte e non fare lotte a spot testimoniali che ormai si vede che non servono a nulla. Cioè non possiamo fare come abbiamo fatto per esempio nell'ultimo anno, che abbiamo fatto uno sciopero a dicembre, poi non ci siamo più visti, abbiamo fatto una manifestazione a Roma a giugno di cui non si è accorto nessuno, ne abbiamo fatto un'altra sabato scorsa. Così non facciamo paura ai padroni. Per cambiare le cose bisogna che la CGIL torni a fare quello per cui è nata, e cioè dare battaglia sul serio, fino in fondo, e non a spot, con un'intera stagione di lotte per riprenderci quello che ci hanno tolto e per difenderci dagli attacchi che stiamo subendo in questi giorni, in queste settimane. Per fare questo, appunto, bisogna cambiare linea diametralmente rispetto a come è stata la CGIL negli ultimi 30 anni. Per questo noi presentiamo questo secondo documento, alternativo ovviamente a quello della segreteria nazionale, insomma che un po' incarna, ecco, questo il percorso invece precedente, e per questo vi chiediamo ovviamente di sostenerlo su questo secondo documento. Compagno, rischi al tuo soldo che non è più un soldo, il posto dove dormi che ci piove è il posto di lavoro che perderai domani. Abbiamo ascoltato una canzone della Banda Popolare dell'Emilia Rossa, Esci fuori compagno. Penso che sia la canzone più adeguata, visto l'intervento che Paolo ha fatto non so in che assemblea, in quale fabbrica, ma sicuramente i lavoratori avranno votato tutti per il documento 2. Avete sentito Paolo? Le ragioni del documento 2 sono ragioni, io penso, di buon senso. Che la CGIL debba fare un cambiamento di 180 gradi, no? Come qualcuno ha detto anche in qualche assemblea 360, perché sennò si torna allo stesso punto di dove si è partiti, visto, perché ho sentito anche queste cose qui. E sì, di 180 bisogna cambiare completamente la rotta, bisogna fare quello che noi ad esempio metalmeccanici facciamo normalmente quando presentiamo una piattaforma ai lavoratori. La si fa con loro quando si può, molte aziende, quelle più importanti, si fanno dei questionari, si guarda i lavoratori, la CGIL è l'unico sindacato che può arrivare a tutti, dai pensionati agli interinali, ovunque può andare, con un patto con i lavoratori. Quello che Paolo dice è questo: questa piattaforma rivendicativa a cui i lavoratori si possono veramente identificare, dove i lavoratori veramente possono perdere dei soldi, giornate di lotta, perché comunque porta a casa dei risultati. E poi si va avanti. Se il governo, Confindustria, le banche dicono di no, così come facciamo nei luoghi di lavoro in cui rinnoviamo i contratti, in cui facciamo le battaglie, si va avanti, si va avanti. Poi le battaglie si possono perdere. Facciamo due esempi. In Grecia la grande battaglia che ci fu contro la Troica non ha visto i lavoratori vincere quella battaglia, ma il loro sindacato, i lavoratori, chi è sceso in piazza l'ha fatto fino alla fine. Poi c'è stato un arretramento, c'è stato, insomma, si è dovuto ripiegare perché le forze sono quelle. In Francia sulle pensioni sono riusciti a vincerle, anche su altre questioni. Il problema è che in questi anni, purtroppo, la CGIL, tantissimi lavoratori sono straconvinti che non abbia fatto tutto quello che poteva fare nei momenti storici importanti in cui noi abbiamo avuto delle batoste storiche, soprattutto dei governi centrosinistra e dei governi tecnici, Fornero, Giobatte, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un problema, perché in questo momento abbiamo bisogno che invece i lavoratori credino nella CGIL e ritornino a considerare la CGIL o comunque il sindacato come uno strumento utile non solo per fare il 730 o per risolvere problemi aziendali oppure per rinnovare i contratti interni o per altre questioni, ma utile per questioni generali. Non possiamo lasciare la politica, che oggi come oggi non ha nessuno come punto di riferimento il lavoro dipendente, non c'è un politico che ha il lavoro dipendente come priorità e noi lavoratori dipendenti come priorità. Dunque dobbiamo essere noi artefici del nostro destino e fare lobby verso il governo, verso Confindustria, attraverso le lotte. Non c'è alternativa. La CGIL è l'unico sindacato che veramente può portare milioni di lavoratori in piazza e far scioperare milioni di lavoratori. C'è stato un bellissimo sciopero il 2 dicembre dei sindacati di base, una grande manifestazione a Roma. Purtroppo stiamo parlando di cose importanti, di lotte importanti, però non cambiano i rapporti di forza. Oggi la CGIL può far questo, è l'unico sindacato, ma deve cambiare completamente, altrimenti siamo destinati a rendere le condizioni dei lavoratori sempre peggiori rispetto a quelle di oggi. Io spero nel 12 e il 13, nel congresso che faremo, provinciale, di poter intervistare anche qualcuno del documento 1, perché è corretto che facciamo parlare anche loro. Oggi Brini ha parlato e faremo una puntata sul documento 1 per correttezza. Io vi lascio, spero di insorgere un giorno e in massa. Ciao a tutti.